ascolti la mia voce, ho da dirle poche cose. Sarò diretto, sarò efficace. Lei sa bene che è impossibile fare il pane con i chiodi. Allora perché insiste a cercare furbi e ladri? Ma per piacere non dica è di tutti. Lei è stato scelto dai cani, dai porci. Altro sarebbe se avesse voluto ascoltare il popolo, la sua voce, il suo credo. Lei sta lì per frenare del tempo, frenare il mondo, frenare il cambiamento. Ma soffierà anche nei palazzi di vetro il vento caldo di cielo, di fuoco. Anche suo padre tanti anni fa vide l'Italia a rotoli perdere l'anima, ma fu la storia a riconoscere chi fece bene e chi fece male, fu lasciato alle sue pene. Lei ci dice di lasciare fuori la piazza dal Parlamento, ma non dice nulla, non dice niente per i corrotti che stanno dentro. Ma per piacere non dica è di tutti. Lei è stato scelto dai cani, dai porci. Altro sarebbe se avesse voluto ascoltare il popolo, la sua voce, il suo credo. Lei sta lì per frenare del tempo, frenare il mondo, frenare il cambiamento. Ma soffierà anche nei palazzi di vetro il vento caldo di cielo, di fuoco. Si è mai posto questa domanda? Quanto può durare chi non ha coscienza? Si è mai trovato spogliato di tutto, della dignità e di ogni rispetto? Non me ne voglia, ma è fuori la storia chi non sa difendere la propria memoria. Caro presidente, sulle sabbie mobili non si costruisce il futuro dei giovani. Ma per piacere non dica è di tutti. Lei è stato scelto dai cani, dai porci. Altro sarebbe se avesse voluto ascoltare il popolo, la sua voce, il suo credo. Lei sta lì per frenare del tempo, frenare il mondo, frenare il cambiamento. Ma soffierà anche nei palazzi di vetro il vento caldo di cielo, di fuoco.